con Vincenzo Miliucci dell'Archivio dei Movimenti per parlare dell'incontro di presentazione della campagna di crowdfunding per l'Archivio dei Movimenti a Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Lettere, giovedì 4 aprile 2019, dal titolo Gli Archivi dei Movimenti tra memoria e conflitti. Vincenzo, ben trovato. Grazie a te, grazie a voi nell'insieme. È una iniziativa che innanzitutto vuole sollecitare coloro i quali hanno a cuore il pensiero di tramandare la memoria nelle future generazioni, di non disperdere i conflitti avvenuti nell'arco del tempo e che diventano un progetto, il progetto archivio che ha necessità ovviamente anche di un finanziamento. Si richiedono circa 33.000 euro per dare vita realisticamente a questo progetto, che non è solamente un progetto di un luogo, ma è un progetto in divenire. C'è bisogno di digitalizzare i materiali, c'è bisogno di sistemarli in strutture tecnologiche adeguate affinché i materiali non si deperiscono e cose di questo genere. In particolare, l'iniziativa è presa da soggetti plurigenerazionali, da coloro i quali sono stati protagonisti delle lotte dagli anni 60 in poi, a coloro i quali invece le hanno poi visionate attraverso le loro tesi di laurea oppure attraverso percorsi di apprendimento, di analisi, eccetera, e che si sono costituiti per dare vita a questa possibilità. Questa possibilità è resa già presente perché il luogo è in Roma, in via Turpignattara 124, e i locali sono stati sistemati, gli storici, gli archivisti sono già all'opera, ma sono all'opera anche volontari di coloro i quali intendono apprendere anche l'attività archivistica, che non è una semplice messa insieme di documenti, eccetera, ma una loro catalogazione e che quindi ha bisogno appunto anche di questo tipo di personale. E tutto ciò è già visionabile a partire da ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 20, ma successivamente, mano a mano che i materiali d'archivio saranno sistemati e saranno visibili più volte alla settimana. Tutto questo avviene in forma gratuita, avviene nella possibilità di ciascuno di poter visionare, lavorarci sopra questi materiali, eccetera, e si ha anche la possibilità di presentare di volta in volta alcuni argomenti relativi appunto a questa storia conflittuale, a questi materiali, eccetera. Certo, il lavoro è immane perché? Perché il cuore dell'archiviazione dei materiali nel loro insieme parte dai documenti cartacei, sonori e visivi dell'autonomia operaia di Radio Onda Rossa. Questo è uno dei capisaldo. Ma a tutto questo si aggiungono i materiali relativi ai gruppi extraparlamentari ed antagonisti, quindi faccio questa distinzione perché i gruppi extraparlamentari cominciano all'indomani del 68, quegli antagonisti proseguono nell'attualità. Poi c'è tutto il movimento sindacale conflittuale, l'ambientalismo radicale, le lotte contro l'energia padrona, l'epopea del movimento antinucleare vincente in Italia, primo in Europa, nel mondo, sia quello civile contro le centrali nucleari in questo caso e contro quello militare che riguarda in particolare la NATO e tutte le servitù militari presenti qui in Italia. La lotta per il diritto alla casa, che è una delle altre grandi battaglie che ha visto Roma protagonista insieme all'autoriduzione degli affitti e delle bollette, tutto quello che riguarda la nascita e la diffusione dei centri sociali non solo a Roma, l'antifascismo e l'antirazzismo militanti, l'impegno solidaristico e internazionalista a fianco dei popoli oppressi, e qui la casistica è veramente estesa, che parte ovviamente dai movimenti rivoluzionari del centro Latino America per arrivare ai palestinesi, ai curdi, ai sarawi, ai sudafricani, a tutti coloro i quali hanno visto la presenza qui a Roma, ma hanno visto questa presenza fondamentale nel nostro paese. In più c'è nell'archivistica già presente i grandi processi, che attraverso appunto i grandi processi si può scorgere anche qui memoria e conflitto, quelli che riguardano la chiusura chiusura di Radio Onda Rossa, intervenuta nel 1980 a fronte di una casistica di reati che andavano dalla diffusione di notizie riguardanti i militari, riguardanti il conflitto, le quotidiane manifestazioni intervenute durante l'anno 77 in particolare, ma in tutti gli anni, quindi dette adito a questa chiusura temporanea e alla successiva riapertura, eccetera, e tutti quei materiali appunto dei processi dell'autonomia operaia romana, il 7 aprile invece a livello nazionale, poi quelli più recenti, quelli della Genova e di Napoli 2001 e poi penultimo quello di Roma del 15 ottobre che siamo in appello e quindi i materiali già ci sono belli e pronti. Volevo chiederti, Vincenzo, i materiali partono dagli anni 60 o anche da prima? Dagli anni 60, cioè in particolare dalla mezzeria degli anni 60, ma abbiamo anche la casistica riguardante il luglio-agosto 60 con il governo D'Ambruni e poi le rivolte nelle varie località d'Italia e successivamente, appunto, dicevo, dopo la mezzeria degli anni 60 si avvia quel percorso che poi dette vita all'autunno caldo, quindi il movimento studentesco, il movimento operaio, con i vari segmenti un po' in giro per l'Italia, quelli più iridescenti, insomma, eccetera, per arrivare poi nella pienezza al 68, al 69, eccetera, eccetera, per cui a quel momento sono stati raccolti con frequenza, con quotidianità i materiali, sicuramente ne sfuggiranno alcuni. Un'altra chicca di questo archivio è che ci sono ben 2000 manifesti che riguardano appunto quel periodo dalla mezzeria degli anni 60 in poi, che sono, tra breve speriamo di no, si sono conservati fino a questo momento, ma sapete quella carta quanto è deperibile e che quindi vanno conservati questi ancora con un'altra tecnologia eccetera affinché possono essere visualizzati. Certo, visualizzati già lo possono essere perché questi sono stati già digitalizzati, per cui si possono fare ovviamente anche tesi tipo quelle del DAMS sui materiali come il manifesto, che è un materiale comunicativo, che spesso è anche un materiale artistico, almeno si distingue l'arte nel tempo e via di seguito. Ecco, tutto questo è fruibile, lo dicevo, a partire da ogni giovedì, a partire dalle 17 alle 20, ma mano a mano che si avverrà del lavoro riusciremo a farlo più volte la settimana. L'invito qual è? L'invito ovviamente è a contribuire, a sottoscrivere innanzitutto per questa iniziale campagna di crowdfunding, in modo che abbiamo la possibilità di non avere il fiato sul collo come tante di queste iniziative hanno. E quella di diventare socio, si può diventare socio in una maniera estremamente formale portandosi appunto a Via Torpigna Barra 124 e trovare lì la soluzione. Partecipare al progetto, partecipare appunto portando le proprie competenze, le proprie intelligenze, le proposte affinché tutto questo possa essere arricchito e diventare parte di tutta questa vicenda e dare un contributo ulteriore, cioè portare i materiali che ciascuno detiene a casa e che alla fine possono essere sicuramente un patrimonio personale, ma che se lo si vuole distribuire collettivamente è decisamente importante mantenerlo in un archivio che lo si spera supererà queste generazioni e via di seguito. Questa è l'intenzione che vedo che colpisce anche tutte le altre attività di archivio che ci sono in Italia. La cosa importante è che ci leghiamo immediatamente a quelle altre esperienze che sono intervenute molto prima, penso all'archivio 68 di Firenze che ormai ha 20 anni di vita, penso all'archivio VAG 61 di Bologna che invece ce n'ha un po' di meno, ce n'ha meno di 10 anni di vita eccetera, penso a questo giovanissimo archivio del 14 dicembre 2000 che i giovani di Torino intendono costruire eccetera, e tanto stimolo che verrà dato a tanti punti nodali dove la memoria e il conflitto si è sviluppata in maniera prepotente in questi 4-5 decenni che sono stati il focolaio della rivolta popolare, della rivolta nei confronti delle istituzioni, nelle intenzioni di procurare una rivoluzione in Italia. Penso ovviamente a Napoli che a questo progetto comincia a pensarci, no? È una delle grandi capitali dove il conflitto è quasi permanente, se penso ai disoccupati, se penso a Pomigliano d'Arco, se penso a tutte le necessità e le incombenze che Sud intervengono, ma la stessa cosa vale per Bari, insomma, e tante altre vicissitudini che penso a gran parte delle altre regioni dove i movimenti ci sono stati e che il conflitto è bassa intensità, media, alta intensità, insomma, è quotidiano e che lo si può riscoprire anche attraverso questa attività di conservazione e di esplicitazione della memoria in termini quotidiani. Vincenzo, noi ci eravamo sentiti nell'ottobre scorso in occasione della presentazione dell'apertura dell'archivio all'interno della Festa della Parola di Logos. Allora ci parlavi rispetto alla sede della presenza anche di spazi per iniziative pubbliche. Ecco, sono già in funzione in questo senso? Sì, ecco, la successiva iniziativa che vorremmo intraprendere all'indomani di questa del 4 aprile è un'iniziativa direttamente all'interno dell'archivio fatta con varie soggettività di natura culturale, di coloro i quali si dedicano ormai a questo spazio della comunicazione. Pensiamo a Zero Calcare e a Tano D'Amico, insomma un fratello, come dire un fratellino, voglio dire eccetera, che tanto stanno dando alla comunicazione antagonista o hanno già dato, appunto l'antico Tano D'Amico, insomma, di cui le fotografie sono ad uso comune, ce ne saranno tantissime anche in archivio ovviamente eccetera, e a Zero Calcare, questo giovanotto che tanto dà come comunicazione attraverso il fumetto eccetera, che ha realizzato anche il manifesto che indice l'incontro della Sapienza proprio. Esatto, ha realizzato anche il manifesto, simpatico, perché dà esplicitamente quello che è il contenuto di un archivio, quello che dovrebbe essere un archivio, eccetera, e che appunto attraverso loro due sarà la prossima presentazione all'interno dell'archivio, ma tutto ciò avverrà anche in altre forme. Per esempio è previsto un appuntamento magari successivo all'estate in cui si affronta un argomento specifico che ha materiali contenutistici all'interno dell'archivio. Per esempio quest'anno è il centenario di Rosa Luxemburg, no? della sua vita, della sua esperienza, eccetera, eccetera. L'archivio 68 ha già prodotto una iniziativa estremamente partecipata a Firenze, ne faremo una replica non nella sede dell'archivio qui a Roma il 18 maggio, ma se dovessimo prendere a contenuto appunto di questo potremmo per esempio parlare dell'esperienza di Radio Onda Rossa, no? Che è un'esperienza storica, 42 anni, con tutto quello che ne consegue eccetera, con tutto il materiale audio che si porta appresso, un pezzo della storia d'Italia, ecco, dicendo da questo punto di vista, con i vari interlocutori, sia che riguardano un progetto radio che è tuttora intelligente, importante, a maggior ragione quando lo si fa con gli strumenti della modernità, attraverso il web, eccetera, e invece come reperto di una condizione della memoria storica, della riflessione di come si fa comunicazione invece di quella subordinata al potere. Allora ricordiamo l'incontro di presentazione della campagna di crowdfunding per l'archivio dei movimenti a Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Lettere, giovedì 4 aprile 2019, dal titolo Gli archivi dei movimenti tra memoria e conflitti. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Miliucci dell'Archivio dei Movimenti. Vincenzo, un abbraccio, in bocca al lupo, ci sentiamo presto. Grazie di nuovo a te. Ciao.